Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Chi pagherà questa crisi finanziaria e industriale? Sarebbe facile rispondere tutti. Invece no, non la pagheranno tutti. La pagheranno solo quelli che portano i soldi in questo paese, cioè il settore commercio, industria e il turismo. Avvocati, commercialisti, notai avranno un po' di problemi, guadagneranno un po' di meno. Però penso che la pagnotta a casa la porteranno sempre. Gli impiegati pubblici sicuramente avranno uno stipendio molto meno consistente dei primi. Però si tratta di uno stipendio che arriva ogni 27 del mese, anche se non sempre lavorano. Gli unici a pagare veramente sono e saranno gli operai e gli imprenditori, specialmente quelli piccoli, del settore industriale in generale, del turismo, perché la crisi è globale, e del commercio, perché se la gente non ha più soldi, chiaramente non compra. Questi tre settori sono fondamentali per il nostro paese, e non solo perché ci lavorano migliaia di persone, ma perché sono la spina dorsale dell'Italia. Senza di loro il nostro paese, con il debito che si ritrova, sarebbe come l'Argentina. Io penso che questo sia il momento delle riforme. Riforme politiche, riforme per i lavori intoccabili e per l'ammodernamento dei servizi pubblici. Prendiamo ad esempio Poste Italiane. Non ci vuole un mago per capire che tra 10 anni non serviranno più tutti questi postini e il calo della vendita dei francobolli è un grosso indizio. Perciò non c'è ragione per assumere oggi altri postini. L'ufficio delle entrate sa che sta perdendo un mare di soldi per colpa dell'evasione fiscale. E allora perché non cercano di razionalizzare la spesa pubblica e collocare i dipendenti pubblici dove servono? Stefano. A proposito di assegno per i disoccupati, vorrei ricordare che in Italia ci sono una moltitudine di artigiani che, come me, hanno chiuso l'attività e non hanno nessuna buonuscita, né cassa integrazione, né contributi per una pensione, eccetera. Niente di niente. Eppure nessuno ne parla e lo tiene in considerazione. Lettera firmata. Sono un libero professionista. Storicamente elettore di sinistra, dal 2001, ob torto collo, ho votato Berlusconi e finché la sinistra sarà questa, continuerò a farlo. Ho visto Franceschini in TV, ospite di Fabio Fazio, e ritengo stia ricalcando pari pari gli errori del precedente governo Prodi. Sta, come al solito, puntando sull'anti-berlusconismo. Sta ritirando fuori il sempre vecchio e attuale tema dell'evasione fiscale. Ma possibile che non riescano a parlare di fisco in termini di equità, senza sviluppare un sistema che ponga il conflitto di interessi come base di un organismo veramente equo? Possibile che non riescano a controllare quanto effettivamente le persone guadagnano, superando così di fatto il sistema più iniquo che c'è, ovvero quello degli studi di settore? Ma veramente questi signori credono che i liberi professionisti siano tutti ricchi e che lavorino solo una volta ogni tanto e per il resto del tempo se ne stiano a Cortina o a Porto Cervo? Possibile che facciano finta di non sapere che se effettivamente si fatturasse tutto con il carico fiscale esistente, si finirebbe per non essere in grado di tenere in piedi un'attività? Oppure, se lo facessero veramente tutti, salterebbe il sistema? Come mai nessun politico spiega veramente perché non si vuole applicare il sistema americano? È l'unico che potrebbe azzerare immediatamente l'evasione fiscale e converrebbe a tutti, poiché tutti chiederebbero la fattura. Mentre adesso, quando dai la fattura a un privato, questo sgrana gli occhi e cade in depressione, oltre a rifiutarsi di saldarla. Penso che questi politici dovrebbero parlare con i lavoratori autonomi e sentire qual è lo stato reale dei professionisti in Italia, soprattutto dopo il decreto Bersani. Antonio. Per lavoro mi capita di andare in commissione tributaria a difendere alcuni clienti. Vi assicuro che alcune norme, oltre ad essere ridicole, sono talmente confuse che spesso vinco la causa e l'Agenzia delle Entrate deve pagare pure le spese. Poter pensare di recuperare 12 miliardi di euro dall'evasione fiscale è demagogia allo stato puro. Per onestà intellettuale, il neo segretario del PD dovrebbe indicare come pensa di poterlo fare. Non nego certo l'evasione fiscale. Il punto è che si vanno a cercare i soldi da chi li può dare, e li ha già dati, senza un contraddittorio serio con l'amministrazione finanziaria. Spesso mi capita di sentirmi dare ragione da qualche funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che poi però dice che deve comunque andare avanti con l'accertamento, anche se ha zero possibilità di vincere in commissione tributaria, altrimenti da Roma arrivano rimproveri. Lorenzo. Le ronde sono evidentemente un concetto politicamente parziale e provocano la reazione della parte avversa, centri sociali, creando, senza risolverli, problemi di sicurezza e quiete pubblica. Ok, allora abroghiamo gli articoli del recente decreto che le regolano. Torniamo alla situazione precedente, nella quale questo tipo di associazioni non erano proibite né regolate in alcun modo. Ci guadagniamo qualcosa? Oppure dobbiamo anche introdurre un coprifuoco per evitare che si organizzino? Andrea. Concordo pienamente con l'intervento dell'onorevole Pisano riguardo allo spreco di energie e di denaro per le forze dell'ordine intervenute a difendere una ronda da esponenti dei centri sociali. Vorrei però chiedere all'onorevole Pisano se sa quante energie e soldi spendono gli italiani per il servizio d'ordine durante le partite di calcio. Perché non ci pensano le società di calcio a pagare la sicurezza? Considerato che i delinquenti che distruggono gli stadi, loro li chiamano ultras, sono ben conosciuti e difesi dalle società. Al caro Franceschini, che propone di dare uno stipendio ai disoccupati finanziandolo con il ricavato della lotta all'evasione, vorrei suggerire, in attesa di detti ricavi, di finanziare subito i disoccupati con il taglio di qualche beneficio dei nostri parlamentari nazionali e locali, cominciando dalla mia regione, la Toscana, dove la Giunta, dopo aver aumentato il numero dei componenti da 50 a 65, dice continuamente che 65 sono troppi, ma non li diminuiscono. Inoltre dicono che ci sono troppi, inutili e costosi consorzi e comunità montane, ma nessuno però li tocca. Ma evidentemente la demagogia rende ancora bene. Valerio. Sono da sempre un elettore di centrosinistra e quindi soffro in modo particolare il momento. Io credo che in Italia il centrodestra abbia vinto, vinca e vincerà sempre, perché il paese è sempre stato più orientato politicamente in questo senso. Ricordo i tempi della DC, quando sembrava che tutti fossero scontenti degli uomini che governavano il paese, motivo per cui noi di sinistra ad ogni vigilia elettorale ci gasavamo e sentivamo odore di rivincita, solo che poi si votava e, come sempre, si finiva scornati. Quindi non credo che la vittoria del centrodestra sia merito del Cavaliere. Anzi, è solo grazie a lui che la sinistra ha ottenuto le sue uniche risicate vittorie elettorali. È stata proprio la particolarità del personaggio Berlusconi a spostare verso il centro-sinistra quei voti che da sempre erano appannaggio del centrodestra. Sono convinto che se in questi anni il centrodestra avesse scelto come leader del suo schieramento un Casini, un Formigoni o anche qualcun altro, avrebbe vinto in egual modo. L'abilità vera del Berlusconi politico è stata, secondo me, quella di far credere ai suoi elettori e soprattutto agli altri uomini politici di centro che lui era l'unico collante, l'unico possibile leader di una coalizione da sempre più forte. Renato, da Napoli. Mi è capitato di sentire e leggere le dichiarazioni spontanee fatte da Fabrizio Corona. In particolare mi ha colpito la sua affermazione di aver agito sempre nella massima legalità nel fare il suo lavoro. Posto che sia così, la domanda è: come può essere legale il ricatto che Corona faceva alle sue, tra virgolette, vittime? Mi spiego. Se ho capito bene, il lavoro del signor Corona si basava sul fatto di ritrarre fotograficamente delle star o VIP, sia dello spettacolo che dello sport, in situazioni solitamente imbarazzanti o compromettenti. Dopo averli fotografati, contattava gli interessati e chiedeva loro se volevano comprare le foto. In caso contrario, venivano vendute ai giornali interessati. Se è così, come si può affermare che questo tipo di lavoro sia legale? Oltre alla violazione della privacy, se non è estorsione, quantomeno è ricatto. O sbaglio? Enzo. Adesso c'è la crisi. Adesso. E per chi? Forse a qualcuno risulta che oggi nel mondo ci siano più bambini che muoiono di fame e di malattie rispetto a qualche anno fa? Forse a qualcuno risulta che oggi ci siano più donne stuprate e diritti calpestati e bambini sfruttati e lavoratori umiliati e habitat distrutti e più guerre sporche di un paio di anni fa? Questo noi non lo sappiamo e non vogliamo sapere. Se c'è crisi, non è certamente quella di cui si parla in questi giorni. La vera crisi è che nessuno si vuole fermare a vedere cosa siamo diventati. Siamo un popolo che a stragrande maggioranza si professa cattolico, eppure adora il dio denaro e per il denaro è pronto a giustificare ogni male possibile. Per il denaro si rende complice di un sistema che è causa di sofferenze, ingiustizie e devastazioni in tutto il mondo. Siamo un popolo che per 30 denari vende ogni giorno l'anima al diavolo. Siamo un popolo così dimentico delle nostre comuni radici cristiane che se qualcuno parla di fratellanza, giustizia, condivisione dei beni. Sospettiamo che sia un comunista. Dovremmo piuttosto ogni giorno confessare la colpa di essere complici, la colpa di omettere di denunciare e di ribellarci. Ogni giorno dovremmo insorgere nei confronti di chi, per i suoi sporchi interessi, ci vuole convincere che a questo sistema non ci siano alternative, che questo è il migliore dei mondi possibili, anzi, l'unico possibile. Cattolici, cristiani di tutto il mondo, siate degni dell'insegnamento, del sacrificio e della resurrezione di Gesù Cristo. Insorgete. Il gallo sta per cantare. Gaspare. Ad oggi la nostra industria automobilistica versa in condizioni disperate con il gruppo Fiat che sta utilizzando la cassa integrazione in modo massiccio. I sindacati e la sinistra, assieme alla dirigenza Fiat, hanno fatto pressioni sul governo per lanciare un piano di incentivi alla rottamazione per risollevare il mercato. Al tempo stesso, un paio di settimane fa, in uno dei momenti di minimo storico del titolo Fiat, è stato messo a disposizione dell'amministratore delegato un pacchetto da 8 milioni di azioni Fiat, due dei quali a suo beneficio e altri 6 da utilizzarsi a favore di altri manager del gruppo. Negli Stati Uniti, tutti i piani di salvataggio per banche e industria automobilistica hanno contemporaneamente richiesto un decisivo ridimensionamento dei compensi dei manager e un impegno a investire pesantemente nel paese al fine di salvaguardare i posti di lavoro. Non voglio certo fare il moralista, ma se si vuole dare un aiuto pubblico alle aziende private, queste ultime devono dimostrare di essere veramente meritevoli di ciò, anche grazie ai loro comportamenti coerenti ad azioni virtuose che devono da loro essere intraprese. Cristiano. Gran parte dei lavoratori italiani non tornano a casa per pranzo, costretti a mangiare fuori casa, alla meno peggio nel bar vicino l'ufficio, in mense private, trattorie, ma anche i fast food rimangono una meta ambita, grazie ai prezzi contenuti. Nessuno degli esempi citati è così economico come la buvette del Senato. Ora io inviterei tutti i lavoratori che operano dalle parti del palazzo suddetto a recarsi tutti in massa alla buvette, dove con meno di 3 euro, IVA inclusa, si può gustare un ricco pasto. Tanto alla fine, chi credete che la paghi la lasagnetta al dente del signor Gasparri o del signor Pancio Pardi? Ivan. Caro direttore e amici ascoltatori, la situazione economica che vediamo tutti i giorni ha origine nella delocalizzazione delle imprese e della produzione nei paesi emergenti. Se per noi va male, per loro significa l'addio alla fame e alla miseria. Basta guardare le etichette con il luogo di produzione. Cina, Madagascar, Tunisia, eccetera. La stessa Fiat ha più del 51% della sua produzione nei paesi esteri, dove la manodopera è a basso costo. Le vecchie imprese non reggono la nuova concorrenza, o chiudono o si spostano in lontani paesi. Il gigantesco fenomeno della delocalizzazione non si arresterà di certo con qualche manovra finanziaria americana o europea, una tantum, e la Cina crescerà ancora, anche per i prossimi anni. Chi ha soldi da investire sposterà sempre più i suoi interessi dove il mercato avrà maggiore crescita. Il resto sono solo dettagli. Per studiare la cura e arginare il fenomeno, prima bisogna capire la malattia. Marco, Milano. Caro Marco, lei ha ragione nel sottolineare che uno dei fenomeni importanti dello sviluppo economico degli ultimi decenni è stata la delocalizzazione delle attività produttive in paesi dove il costo di lavoro è più basso. Questo ha portato a una crescita di questi stessi paesi, anche se lentamente, a un aumento dei consumi e a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Ma il fenomeno non può essere certo considerato una causa della crisi economica che stiamo vivendo. Anzi, nella maggior parte dei casi, ha aiutato le imprese a mantenere la propria competitività e quindi anche a difendere l'occupazione. All'origine della malattia attuale, infatti, ci sono i debiti, c'è l'eccesso di attività finanziarie, c'è l'illusione di poter creare la ricchezza con l'ingegneria finanziaria e non con il lavoro. E allora, la malattia che sta colpendo l'economia occidentale non si può affrontare con il protezionismo, con l'autarchia, con la chiusura delle frontiere, ma con nuove regole, nuovi controlli, nuovi modelli di comportamento per banche e società finanziarie innanzitutto. Nella Grande Depressione degli anni 30, proprio le misure protezionistiche che vennero approvate da molti stati aggravarono i problemi e allontanarono le soluzioni. Ma per fortuna, almeno per ora, i governi dei paesi occidentali sembrano aver imparato la lezione di 80 anni fa. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.